Semmai alla solitudine, che ringrazio perché mi ha portato fin qua. Sai che certe volte cammino solo tra la gente, sembra che non puoi far niente, malgrado poi l'amore ci dirà le cose che ora tu non sai più dire. Non cercare di capire se non puoi. Seguo le derive che mi porteranno via. Dopo il deserto vedremo il mare. Dalle azzurre onde vedremo il sole che nasce a oriente, che sale su, poi scende giù. Ma questo tempo passerà e si porterà via un che di definibile, una parte di noi. Come un'abitudine che ci cambia così, senza cambiarci mai. Malgrado poi l'amore potrebbe far fiorire il rosmarino e il mare sul davanzale. Malgrado poi l'amore potrebbe far capire, potrebbe continuare. Malgrado poi tu tu tu tu. Vola via nel vento la stessa trama d'un racconto che diventa un tango che ci unisce poi. Ma rifletto e penso che continuare non ha un senso, eppure ogni volta resto e resto qua. Sono stato così tanto tempo solo che non ti so dire cos'è l'amore. Sogni e poi frammenti di situazioni e di momenti andranno via, malgrado poi. Ma che cos'è la verità? Quanti sforzi per poi non saper più distinguere tra la rosa e il lilla, una spina infallibile al mio cuore dirà quando tu mi amerai. Malgrado poi l'amore potrebbe far fiorire il rosmarino e il mare sul davanzale. Malgrado poi l'amore potrebbe far capire, potrebbe continuare. Malgrado poi tu do do do, malgrado poi sognare, mancare, amare io t'amei. Sognare, mancare, amare io t'amei. Tudo bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom.